a quanto asserisce Rosita Levi-Peseschi, che è una storica della moda, è al periodo umbertino, ovvero agli ultimi 20 anni dell'Ottocento, che si deve far risalire tra le persone da bene l'abitudine ai ricevimenti nei giardini e nelle circostanze l'uso da parte delle signore di guanti e cappelli, cappelli più e meno disadorni, di materiali leggeri a larghe falde, dai chiari colori come piacevano alla regina Margherita. Che quindi il cappello possa tuttora designare valenze simboliche varie, fra cui preminente quella di rappresentare differenza di classe e potere d'acquisto di una persona, non può stupire più di tanto. Che ancora oggi il Corriere della Sera, nel raccontare come si è svolto il concorso ippico internazionale di Piazza di Siena in Roma, dedichi ben 6 fotografie per documentare il vezzo dei cappelli in tribuna d'onore, può stupire davvero. Sembra notizia si fa per dire, meglio sarebbe dire attestazione di quel tanto di effimero che sancisce la gerarchia sociale. Sembra notizia anacronistica. Ma d'altronde è anche vero che si sta parlando di uno sport che, guarda caso, non viene raccontato nelle pagine sportive, bensì nelle cronache, e che annovera tra i suoi protagonisti soltanto chi altrove nella vita civile, per lo più essendo figlio di qualcuno, comanda. La giovanissima figlia del re del caffè, la figlia del famoso pilota, la figlia del principe di Monaco, il giovane nobiluomo, tutti rampolli uniti da una passione per il cavallo che, per l'occasione, odora più di Chanel che di stalla. L'anno 1960 in Italia non è cominciato sotto i migliori auspici. La Democrazia Cristiana ha urgente bisogno di nuovi alleati che le consentano il mantenimento del potere. E il 7 gennaio il cardinale Ottaviani mette avanti le mani del Vaticano, definendo novelli anticristi socialisti e comunisti. E con ciò la temuta apertura a sinistra sembrerebbe scongiurata. Conseguentemente, quando dopo un travaglio doloroso Fernando Tambroni sale al governo, ha bisogno dei voti dei missini, ovvero dei neofascisti, che in cambio ottengono le risorse per riorganizzarsi. Viene apertamente favorita la nascita di nuove organizzazioni di estrema destra in tutto il paese. Lo sdegno popolare suscitato da una parte e la precisa volontà di dura repressione dall'altra, perché la polizia venne autorizzata a sparare, porterà agli scontri di Genova, Licata, Roma, Reggio Emilia, Palermo e Catania, allo sciopero generale e a numerose vittime fra studenti e operai. A Roma, a Porta San Paolo, il 6 luglio, contro i manifestanti venne usata la polizia a cavallo. Fu una carica violenta e furiosa. I poliziotti armati di mazze, catene, scudisci, i cavalli impazziti lanciati contro la gente. Tanto per dare un'idea di quel che era rimasto l'apparato dello Stato pur nel passaggio dal fascismo alla Repubblica. Nel 1960 le forze di pubblica sicurezza adibite alla repressione interna contano 45.000 uomini, il 70% in pratica del totale. I prefetti sono 64, di cui ben 62 sono stati funzionari del Ministero degli Interni durante il regime fascista. I viceprefetti sono 241, e tutti e 241 avevano fatto parte della burocrazia fascista. I questori sono 135 e 120 di loro erano entrati in polizia già durante il fascismo. I vicequestori sono 139 e 134 di loro avevano già preso servizio durante il fascismo. Il capo della polizia, infine, è Giovanni Carcaterra, che nel 1927 era entrato nell'ufficio personale del ministro degli interni. Per dare un'idea, ecco, non solo di chi guidava all'epoca la repressione antipopolare, ma anche di come sono andate le cose nella storia della nostra Repubblica, beh, per dare un'idea credo che basti. Nel suo ultimo libro, Compagni di squadra, lo storico Sergio Giuntini ricostruisce con preziosa documentazione il modo con cui da parte del proletariato italiano è stato percepito lo sport nello sviluppo di tutto il Novecento. Fra l'altro racconta anche la vicenda inventata ma credibilissima, di un giovane comunista milanese che si è trovato a Roma in quel bruttissimo 6 luglio del 1960, che ha preso le sue botte e ha corso i suoi rischi, e che, appassionato di sport, più tardi, il 7 settembre dello stesso anno, si è trovato in piazza di Siena ad assistere alla fase finale del concorso ippico organizzato nell'ambito delle Olimpiadi. Riconosce infatti nel vincitore italiano che sta applaudendo proprio il capitano che aveva visto comandare le cariche delle squadre di cavalleria contro la manifestazione cui aveva partecipato. Era uno dei due fratelli di Inzeo, Raimondo, medaglia d'oro, davanti al fratello Piero, cui toccò soltanto il bronzo. Gloria sportiva, certo, e come tale osannato perfino da quel popolo che, in altra veste simbolica, perché la divisa era pur la stessa, lo aveva temuto e detestato. Sono contraddizioni da ricordarsi ogni qualvolta si parla di qualcuno per una funzione che ha svolto ad un certo livello di superficialità del meccanismo sociale, dimenticandone la funzione svolta ai livelli di maggiore profondità. Quella di Giuntini non è un'ipotesi. Nonostante che i giornali non amino affatto ricordarlo, e il Corriere della Sera di questi giorni ne pubblica la fotografia, ma soltanto in quanto appunto eroe olimpico, è assodato che il capitano Raimondo D'Inzeo abbia comandato le cariche della polizia a cavallo. Più dubbio sembra il ruolo del fratello Piero. Ci fu chi lo diede attivo anche lui nella feroce repressione del 6 luglio, ma lui sulle pagine del Messaggero smentì la circostanza, precisando che in quei giorni lui non c'era, lui neppure si trovava a Roma. Era a Ischia, poverino, intento a cure che, vatti a fidare, temo non gli abbiano fatto un granché bene. Non sarà stato vittima delle conseguenze più brutali dell'ideologia fascista, ma il fatto che lui dichiari di essere andato a farsi sottoporre a bagni radioattivi, direi che non lo esclude dal novero delle vittime di ideologie altrettanto letali.